America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Steve Jobs, the visionary founder and leader of Apple Computer, has died at the age of 56. A giant in business, technology and entertainment. Steve Jobs had been battling pancreatic cancer for 8 years. Avete sentito uno degli annunci a reti televisive, direi interrotte, su base nazionale? È morto Steve Jobs il 5 ottobre del 2011. È uno degli eventi che ha definito sicuramente l'anno. C'è stata un'ondata emotiva che ha colpito il pianeta, dagli Stati Uniti all'Europa, all'Italia, alla Francia, alla Corea, al Giappone, all'Asia, insomma dappertutto, persino in Iran si sono buttati tutti su internet a cercare di esprimere il proprio lutto, le proprie sensazioni per la fine, purtroppo prematura, di un uomo che ha davvero cambiato il mondo. Vi ricordo alcuni dei momenti salienti di quest'anno in cui si è capito che Steve Jobs forse non ce l'avrebbe fatta. Il 17 gennaio ha preso congedo dall'Apple Computer per ragioni di salute, poi è ritornato il 2 marzo quando c'è stato il lancio dell'iPad 2, è arrivato a sorpresa sul palco, scheletrico, magrissimo, però con questa straordinaria forza, questa straordinaria energia che ha comunque di nuovo coinvolto, entusiasmato i partecipanti. Il 6 giugno viene introdotto l'iCloud e il 24 agosto Steve Jobs dà le dimissioni da amministratore delegato dell'Apple, Tim Cook prende il suo posto. Il 4 ottobre c'è l'evento Let's Talk iPhone, viene presentato l'iPhone 4, Siri, il telefono che parla, e il 5 di ottobre Steve Jobs ci lascia. Ecco, vi ho parlato di Steve Jobs in realtà per parlare un po' del settore high tech, il settore high tech che domina la nostra vita. I prodotti di Steve Jobs, dall'iPhone all'iPad, dominano la vita di molti di noi e c'è un futuro un po' incerto, siamo un po' in una situazione di stasi. Io ricordo quando incontrai Eric Schmidt all'evento di Walt Mossberg, alla Digital Conference che si tiene in California, il quale a un certo punto fece un grande pronostico, dice: ci saranno soltanto 4 grandi protagonisti guardando da qui ai prossimi 10-15 anni nel settore high tech, e sono l'Apple Computer, Amazon, Google naturalmente e Facebook. Ha escluso, pensate, Microsoft, ha escluso magari prodotti minori come Twitter, che secondo me sta crescendo molto, e in realtà ci sono nelle retrovie una serie di prodotti che stanno crescendo, da Groupon di Andrew Mason a Square di Jack Dorsey, che poi è un cofondatore di Twitter. Un settore dunque in evoluzione. Io sono in linea con Gianluca Rattazzi, che è un imprenditore italiano dell'high-tech nella West Coast. Buongiorno Gianluca. Salve Mario. Vorrei partire subito con una domanda. Ha ragione Eric Schmidt quando dice che da qui ai prossimi 15 anni ci saranno soltanto 4 grandi dominatori del settore? Secondo me tira un pochino l'acqua al suo mulino e magari a quello dei suoi amici. Il fatto che non abbia incluso la Microsoft mi sembra giusto. Oggi non c'è nessuna compagnia giovane che parte dicendo: cerchiamo di capire quello che fa la Microsoft, così ci possiamo o difendere o inseguirli. Però ci saranno tante compagnie nuove di cui ancora magari non sappiamo il nome o che conosciamo a malapena, che potranno diventare grandi. Il fatto che abbia incluso Facebook ed il fatto che Facebook 5 anni fa non esisteva dà subito un'idea di cosa è possibile in questo mondo e la velocità con cui si muovono le cose. Ecco, che cosa è possibile in questo mondo? Quale innovazione vedi in arrivo che magari potrà cambiare il nostro modo di essere, così come l'ha cambiato, che ne so, l'iPhone o l'iPad? Diciamo, quello che è cambiato rispetto a 10 anni fa è quanto velocemente possono crescere nuove compagnie. Cioè, tu hai nominato la Groupon. La Groupon è andata praticamente da vendite zero a vendite di 100 milioni di dollari e più in meno di un anno. Questo non si è mai visto. Se noi ci ricordiamo la Compaq Computer, che insieme all'IBM fece il primo personal computer, fu la compagnia che diventò una Fortune 500 nel tempo più corto che ci si ricordi nella storia d'America. Però non ebbe questo livello di crescita, il primo anno fece 100 milioni e poi ne fece 250 e così via. Oggi vediamo compagnie che vanno da 0 a 1 miliardo in tempo record. Tu stesso sei un investitore, hai una società, Envivio, che probabilmente potrebbe andare in borsa se le cose si mettono bene. So che hai anche venduto una tua società, di cui eri il fondatore e poi partner attivo, la Blue Arc, mi pare alla Hitachi per 600 milioni di dollari. Esatto. Ecco, cosa fa un imprenditore quando incassa, immagino, una parte di 600 milioni di dollari? Non si ritira a vita privata? Beh, no, sai, nel caso mio, prima cosa, questa è la quarta che è andata bene, quindi sono stato fortunato, però uno continua sempre a inseguire il successo ed è anche un modo, secondo me, per continuare a sentirsi giovani, a difendersi dagli anni che passano, di fare la prossima cosa. Diciamo, nessuno vuol dire ho finito e adesso mi siedo da qualche parte. Larry Ellison dice: tu ti senti arrivato, per me vuol dire che non stai andando più da nessuna parte. Beh, motto straordinario che diamo a tutti i nostri ascoltatori come così incentivo per l'anno che arriva. Raccontaci cosa fa la Envivio. La Envivio è leader nel settore di permettere agli utenti di vedere la televisione su multipli schermi, cioè il mondo è passato da vedere la televisione soltanto sulla televisione fisica, mentre invece oggi molte persone vedono la televisione, video, film, programmi sul loro personal computer, sul loro laptop, sull'iPad, che oggi probabilmente è il numero uno su cui la gente vede il video, e poi iPhone, Android, Google Tablet. Quindi siamo passati da un mondo dove si stavano tutti seduti nella stessa stanza di fronte alla televisione litigandosi su che canale si sarebbe visto quella sera, a questo mondo dove oggi magari mia moglie vede la TV, io mi guardo un film su Netflix sul mio iPad, mio figlio sta seduto davanti a un Macintosh a guardarsi un programma di HBO e così via. Noi oggi abbiamo il 75% di questo mercato in tutto il mondo, vendendo ai grossi nomi, dalla AT&T alla Telefonica, alla Deutsche Telekom, eccetera. Ecco, e la Blue Arc? Cosa fa la Blue Arc? Quello è un mercato che tu non hai toccato, che sta veramente cambiando il mondo di big data. Cioè, se tu guardi a quello che succede indirettamente, tutti guardiamo alla Groupon, tutti guardiamo alla Facebook, a queste compagnie esplosive, ma la realtà è che hanno così tanti dati che hanno questi enormi, questo che in America ormai chiamano big data, ovvero questi sistemi massivi di storage che non solo contengono un sacco di informazioni, giusto per darti un paio di dati, la gente accede su Facebook a oltre 1 miliardo di immagini al giorno, pensa soltanto al numero, ogni giorno la gente mette 1 miliardo di immagini nuove su Facebook e quindi queste vanno messe da qualche parte, quindi storage, e poi ancora più importante il response time, quando tu vai a vedere la fotografia o il filmino, la canzone che si è messa, lo vedi tu, lo vedono altre 10.000 persone, tutti lo vogliono vedere senza dover aspettare troppo a lungo. Quindi la Blue Arc va nel mondo di big data e questo è un nuovo mondo in cui vedi compagnie esplosive. C'è per esempio una compagnia in Silicon Valley che è ancora privata, che si chiama Violin Memory, e nel primo anno o i primi pochi mesi hanno fatto 10 milioni di vendite. Un anno dopo sono passati da 10 milioni l'anno a 300 milioni l'anno per una compagnia che costruisce sistemi fisici, quindi vuol dire costruirli, spedirli, andare da 10 milioni a 250-300 milioni in un anno e poi magari l'anno prossimo potrebbe essere anche 1 miliardo di dollari, non si è mai visto prima, ma è tutto causato da tutte queste nuove website che stanno esplodendo con dati, fotografie, film, eccetera, e c'è questo bisogno di contenere tutti questi dati che possono essere accessi a alta velocità da milioni o centinaia di milioni di persone. Come vuoi lasciare i nostri ascoltatori, così, con un'immagine anche di augurio per questo 2012? Che immagine tecnologica, che sensazione gli vuoi dare? Ma visto che tu hai incominciato con l'Apple, mi piacerebbe forse finire con l'Apple. Direi che l'Apple è l'unica compagnia che si sta immettendo in nuovi mercati, da cui oggi puoi comprare il telefonino, puoi comprare il computer, puoi comprare il laptop, puoi comprare il tablet e secondo me prima o poi, più prima che poi, potrai comprare la televisione. E sono tutti sistemi collegati dall'iCloud, quindi cambi da uno all'altro e ti trovi le stesse fotografie, gli stessi dati, completamente integrati, cioè una compagnia secondo me eccezionale. Ancora per i prossimi 2-3 anni vedremo tutto quello che Steve Jobs ha creato, perché i programmi di sviluppo tendenzialmente durano 2 o 3 anni, quindi c'è ancora l'occhio dal paradiso in un certo senso di Steve Jobs, che ha lavorato fino alla morte per permettere di avere nuovi prodotti innovativi. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno, la canzone regina. Ripeto quali sono state le 5 canzoni che abbiamo scelto a partire da lunedì: Moves Like Jagger di Maroon, Christina Aguilera; Last Friday Night, Katy Perry; Just Can't Get Enough, Black Eyed Peas; Party Rock Anthem, LMFO; e la canzone regina, la numero uno, Born This Way, Lady Gaga. My mama told me when I was young, we're all on superstars. She rolled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Give yourself prudence and love your friends, so we can rejoice the truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. A different law is not Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento all'anno prossimo, al 2012. Goodbye and get going!